gioca il grande tema che è uno dei temi fondamentali della Casa del Fascio, ed è la dialettica tra volume unitario, massa stereometrica imperfetta e dilatazione della percezione dinamica, sia con movimenti rotatori, sia con movimenti di penetrazione, di stratificazione nell'edificio. Un telaio che è talmente forte, l'opera è talmente importante da questo punto di vista, che si richiama continuamente in varie parti dell'edificio, all'interno e all'esterno, lo racconta in tanti momenti e in tanti punti. Questo è un punto importante. La pagina della provincia di oggi ha un attacco abbastanza forte al fatto che si svolgerà con difficoltà la conferenza di Eisman alla Casa del Fascio del prossimo 12 dicembre, e c'è anche, se ben ricordo, una notazione sul fatto che, non dico me stesso, ma Cacciari o altri, ma tutto il ciclo di conferenze era stato logicamente previsto all'interno della Casa del Fascio e è stato, invece, non è stato concesso. Questa è una cosa su cui non è una cosa che Terragni meritava, che Giuseppe Terragni meritava, al di là dei giudizi specifici. Perché ci sono queste foto? Un occhio avvisato capirà subito. Credo che fisicamente io mi sia spinto più in alto di qualsiasi altro studioso nella Casa del Fascio di Terragni, che guardo Paolo Rosselli. Ho pesato le parole. Nella casa, nel posto più in alto nella Casa del Fascio di qualunque altro studioso di Terragni. Le parole sono registrate, quindi le rivendico. Nella magica notte del 18, la Casa del Fascio era un edificio magico, era un edificio aperto, era un edificio vivo, ed era vivo tutta la notte. C'erano amici, persone che costruivano l'info box accanto, altri architetti, altri amici, tra cui Gatti e tanti altri, che lavoravano all'importante show che si doveva avere alla Casa del Fascio. La Casa del Fascio era un edificio completamente permeabile, era quello che doveva essere. In questa occasione io ho potuto salire fino a quasi cadere, perché queste foto non sono fatte a livello della terrazza, sono fatte a livello della copertura. Nell'unico punto in cui si può vedere in questa maniera il Duomo, perché il Duomo normalmente viene incorniciato a livello di questa copertura, mentre invece io mi sono arrampicato sulle antenne, ecco perché ho detto sono salito come nessuno studioso di Terragni così in alto. Ed è stata una notte magica che speriamo non sia, che sia ripetibile, ed è l'unica mia piccolissima vergatina polemica che però in questa occasione mi sembrava giusto rivolgere, ma non nei confronti di Terragni. Telaio ancora, telaio nella Rustici. Nella Rustici il telaio diventa un canto alla volontà dell'edificio di essere fatto pubblico, fatto della città, e il grande elemento attrattore dello spazio urbano all'interno dell'edificio. Sapete che la cosa più importante di tutto quello che c'è sulla Rustici è quello che si vede qui, in questo punto dove metto la freccia. Questo è il piccolo schema che Terragni e Lingeri costantemente rimettono per fare capire la fatica tremenda che loro hanno fatto per inventare uno schema tipologico che superasse il blocco a cortile, e gli sforzi tremendi, faticosissimi, che poi non hanno più fatto di cercare di forzare i dettami della nuova architettura all'interno di un codice urbanistico, un regolamento edilizio non fatto a quello scopo. Questo cancella lo schema a croce e mostra lo schema tripartito impostato da Ferragni in questa occasione come in tante altre, in cui il telaio diventa formativamente l'elemento chiave per unificare le due ali e allo stesso tempo risucchiare lo spazio della città dentro l'edificio, in una tipologia allo stesso tempo completamente razionale, funzionale, aderente a quello che si discuteva con gli amici del CIAM, allo stesso tempo urbano di Milano e completamente innovativo, rivoluzionario, una fatica improba. Il telaio diventa, nella serie di ricerche della casa unifamiliare, ha altre evoluzioni, ha delle evoluzioni geniali, impensate, che ci fanno vedere come nelle mani di un architetto creativo le parole si prendono, si trasformano, si combinano, diventano altre cose, aprono nuove strade. Ferragni ha, come fratello maggiore, uso la parola fratello maggiore, Le Corbusier. Dico fratello maggiore perché è Le Corbusier che parla di Ferragni come un fratello della lotta per la nuova architettura. Questo fratello maggiore insegna molte cose, insegna la nitidezza del volume primario, la sospensione da terra, la stereometria, ma Ferragni è anche affascinato dal mondo dinamico, dal mondo delle trasparenze, dal mondo della sconnessione del piano e inventa, lui italiano, lui che scrive con gli amici del gruppo 7 della presenza del volume, lui che parla anche lui che ha questo nome Ferragni, lui che ha questa torre e questi volumi, qua in questa sua Como, lui che conosce il volume perché lo sperimenta e conosce anche la passione per questa trasparenza, simmetria e dinamismo, lui inventa questo meccanismo che la scatola diventa non più una scatola come era appunto quella delle Corbusier, pure sospesa, ma diventa un telaio gigante, un telaio unificatore al cui interno possono convivere dialetticamente, però racchiuse dal sistema primario tutte le scomposizioni plastiche, le trasparenze, i movimenti, i dinamismi. Una dialettica geniale che mai nessuno aveva trovato fino a quel momento, in cui appunto più mondi possono coesistere. Quest'altra opera è un'opera anch'essa molto, molto importante, non costruita, è la villa sul lago del 36, in cui questi elementi assumono una assoluta chiarezza didattica che può essere anche ripercorsa in questi schemi, il volume sospeso, il volume scavato a telaio, l'inserimento dentro questo grande elemento unificatore, questo nuovo ordine gigante degli elementi variabili, degli elementi dinamicamente composti, così che i due mondi entrano a parlarsi l'uno con l'altro, a raccontare storie diverse. Questa villa, che invece è costruita qua a Como, anche se molto trasformata, è la realizzazione della villa del Floricoltore, Ferragni fa una scoperta nuova, un'invenzione nuova, perché gli architetti continuano a ragionare sulle cose, le cambiano per il loro stesso sentire, perché cambia il momento, perché cambia il cliente, perché cambiano le ragioni costruttive, perché devono sperimentare cose nuove. E scopre che il telaio, che prima era un elemento organizzatore della profondità dell'edificio, del dinamismo dell'edificio, come abbiamo visto nella Casa del Fascio, poi diventa un elemento unificatore che dialetticamente entra in rapporto con le parti, poi può diventare un elemento libero, che entra dialetticamente in rapporto con il volume. Il telaio si libera dal rapporto con il volume. È un'opera non bilanciata, in cui anche la stessa idea, questa idea del letterario in quanto elemento che si è liberato, si è affrancato dal volume, quasi come non sei l'hai scoperta e la vuoi sperimentare due volte, una da questa parte e una da quest'altra parte, perché non hai neanche tu stesso compreso la logica complessiva attraverso cui questa rottura può avvenire. E la rottura vera, questa nuova invenzione, arriva con la Villa Bianca, che è un'opera incredibile da questo punto di vista. Perché è un'opera incredibile? Perché il volume ha riacquistato alla fine di questo percorso tutta la sua presenza. Il volume non è più sospeso, il volume è seduto. Pagano scrisse anonimamente una cosa molto bella, disse: il volume è coricato, il volume ha riacquisito completamente la sua presenza, non è più elemento dissimmetrico posto in crisi da un telaio gigante, non è più penetrato da forti chiaroscuri, il volume si risiede. Come si fa a far risiedere un volume e fare allo stesso tempo un'opera così dinamica, così incredibilmente dinamica, così spinta nell'atmosfera? La parola chiave ridiventa il telaio, eccolo qui, lo vedete in questo punto, perché il telaio è il capostipite di una serie di elementi architettonici che sono divincolati dal volume e che lo attaccano dinamicamente. Il volume vive e vivono una famiglia di oggetti di cui il telaio è il simbolo, antagonisti al volume, che lo mettono in crisi dinamicamente, che ne fanno leggere trasparenze, che ne fanno leggere profondità inattese, che lo muovono dinamicamente nello spazio in una maniera sentita, diversa, contemporanea. Questa famiglia di elementi di cui il telaio è capostipite si arricchisce con le pensiline, con gli attacchi a terra e con i dettagli, perché i dettagli non sono soltanto logica sapiente del costruire, sono il pezzo di DNA che rivela la ragione della progettazione. Nel dettaglio c'è il DNA compositivo di un progetto. E guardate com'è fatta la finestra. La finestra non è più un ritaglio ad asola, come su un taglio di un foglio di carta, ma è incorniciata, ritorna a essere incorniciata. E perché incorniciata? Perché questa cornice è l'elemento che appartiene, che cospira insieme al telaio, insieme alle pensiline, insieme agli altri, a questi altri elementi, la messa in crisi del volume unitario. E nasce questa logica dialettica completamente nuova nello scenario internazionale e non pensabile se non in Italia. Quindi la storia del telaio è una storia di una progressiva liberazione, un lavoro su un elemento, e noi abbiamo visto un solo elemento del pittura, ne dovremmo fare altri, in cui in qualche maniera possiamo ricostruire almeno un aspetto e capire e intuire e sentire la ricchezza del lavoro di architetto di Ferragni, di cui evidentemente in una circostanza come questa non potevo parlare. Sono più a lungo di così. Sono in finale e il finale di questa operazione è solo il capolavoro, perché il movimento è un po', in questo contesto è veramente riduttivo poter parlare di un capolavoro dell'architettura mondiale come Orazio Sant'Elia attraverso soltanto il concetto del telaio. Potremmo parlare in tanti modi, ma l'economia di questa conversazione mi consente soltanto questo. Ferragni nell'Asilo Sant'Elia mette in azione una serie numerosa di sue idee. La principale si muove nella idea dello schema tripartito, perché l'Asilo Sant'Elia è uno schema tripartito, come moltissimi progetti di Ferragni sono schemi tripartiti. La Casa del Fascio è uno schema tripartito, mai abominio guardare la Casa del Fascio come un edificio a porte. La Casa del Fascio è un edificio tripartito in cui lo spazio centrale è inteso come prolungamento dello spazio esterno. La Giuliani Frigerio e la Frigerio è anche uno schema tripartito, ma la Russi c'è uno schema tripartito e così via, ce ne sono molti. L'asilo Sant'Elia è uno schema tripartito. L'idea fondamentale di Ferragni è però che lo spazio centrale in questo caso non è lo spazio dell'esaltazione della vocazione pubblica, declamatoria e collettiva del regime, come nella Casa del Fascio, non è la maniera di attrarre lo spazio urbano all'interno dell'edificio, come nella Casa dell'Edificio, ma è un canto al rapporto tra architettura e natura, un canto però fatto da un architetto comasco, cioè un canto di un architetto che ha nel suo imprinting un rapporto comunque artificiale con la natura, che ha nelle sue vene il castrum romano, ha la geometria, ha queste cose, ma allo stesso tempo sente e interpreta questo rapporto con la natura attraverso il tema dell'infanzia. Ecco questo spazio centrale. Questo spazio centrale è il punto in cui questo avviene. E avviene attraverso due movimenti fondamentali, di cui il telaio è il grande protagonista. Avviene con un movimento di carattere longitudinale. Il movimento comincia con la fuoriuscita di un pezzo di materia sulla strada, eccolo qua, con la apertura, col continuamento di questo spazio, in questo grande magico atrio, appunto nella fascia centrale, con il proseguimento nella corte, che non è una corte, ma è lo spazio del rapporto dell'edificio con tra le due ali che si guardano uno con l'altro e anche lo spazio in cui la natura assume questo suo valore, e con le ricuciture finali. Questo movimento longitudinale in materia, fino a che questo movimento viene, diciamo, lanciato all'esterno, appunto, con la figura del telaio in questo punto. Come sapete, in un progetto importante intermedio vi era un momento anche nello spazio dell'atrio, che era a lucernario in una grande asola, che poi è stata, diciamo, tolta. Forse è ancora meglio come è stato realizzato, forse era un accenno anche di troppo, anche se è stata tolta per alcune cose. L'altro movimento, uno dei movimenti più belli dell'architettura italiana, è il movimento trasversale, in cui ancora la materia si muove da una parte all'altra, e come da una parte spinge e dall'altra viene accolta, da una parte si apre e dall'altra si chiude, e la materia ha questo movimento tellurico che fu notato già moltissimi anni fa da Gandhi. Ecco qui l'arrivo o la presenza del movimento di questa fascia centrale sulla strada. E lo spazio centrale e il rapporto tra le due masse e la grande storia di questa architettura, di cui ovviamente potremmo parlare a lungo. Tutto questo è materiale vivo, è materiale che serve, è materiale che non ha il suo fine, quello di creare nuovi lettori o nuovi critici più o meno benevoli a questo libro, che ormai ha fatto la sua storia e come i figli vive la sua vita indipendentemente dai suoi genitori. Le cose che noi possiamo fare, che continuiamo a fare, è quello di cercare di parlare agli altri. Questa è un'immagine del corso Terrario Futuro, che è un corso che si è concluso quest'anno con una mostra completamente programmata sull'architettura di Terragni, che speriamo ancora di riuscire a realizzare. Questo lavoro ha coinvolto 80 studenti, 5 assistenti, più o meno un lavoro complessivo. Il lavoro è stato quello di indagare l'architettura di Terragni con una lente critica il più possibile attenta, il più possibile seria, il più possibile circostanziata, e a partire da questa scommettere sul futuro, scommettere sulla possibilità che le nuove generazioni possano creare anche loro, anche attraverso questo patrimonio, ma un patrimonio rivissuto appunto in quella maniera libera, circolare, erosiva, che vi ho fatto vedere all'inizio, poter creare le loro cose. è stato fatto, è stato presentato pubblicamente, ve ne posso mostrare praticamente nulla di moltissimi di questi lavori, ma vi faccio un esempio. La mostra si terrà e si dovrebbe tenere nello grande spazio dell'Acquario Romano, che è questa della Casa dell'Architettura di Roma. Si pensa che questo spazio al piano terra sarà uno spazio che comunque funzionerà per seminari e incontri durante il periodo della mostra. Il gruppo degli studenti che ha vinto democraticamente con giurati il premio del allestimento migliore è un gruppo che mette insieme degli echi del lavoro di allestimento di Terragni, particolarmente per la sala del decennale, con tutto un tema che è molto vicino alle nostre nuove generazioni, che è quello dei motori di ricerca, dei cosiddetti spider, dei ragni. Noi potremmo sogghignare, noi cinquantenni o più che cinquantenni, ai temi delle nuove generazioni, ma in realtà il mondo è diverso. Loro hanno creato questo allestimento, che è un allestimento abbastanza molto interessante, a mio avviso è stato giudicato positivamente da tutti quelli che l'hanno notato, ed è un allestimento che appunto conserva una possibilità dello spazio di seminari, ma avvolge lo spazio da questi ragni, che sono ragni in realtà che raccolgono informazioni, che sono modificabili interattivamente e che soprattutto al loro interno creano una serie di nicchie per successivi sottoallestimenti critici dell'opera di Terragni che gli altri studenti andranno a fare. Qui ne vedrete alcuni, c'è stato un lavoro molto impegnativo che può essere tutto visto in rete ed è uno dei frutti di questo lavoro che io anche per loro mi sembra giusto mostrare. Veniamo anche da lavori attenti di ricostruzione filologica di diverse opere. Quindi a questo punto il ciclo finisce con una parola appunto rivolta al lavoro delle nuove generazioni e con l'affermazione e la speranza che un po' tutti noi riusciamo anche a conservare non tanto in noi stessi lo spirito, come dire, giovanile, l'entusiasmo della voglia di fare, che è abbastanza facile in fondo, ma quanto, e questo è molto più difficile, che noi stessi riusciamo sempre ad alimentare il lavoro dei più giovani, ricordandoci che appunto che noi stessi abbiamo fatto le cose più importanti, forse quando eravamo molto più giovani, e anche Terragni è una persona giovane, è nata giovane, è rimasta giovane, è morto purtroppo molto giovane. Grazie.